لو جمعنا دموع الأرض بطلع معنا نهر دموع Quando la macchina che veniva da Gerusalemme arrivò alla periferia di Haifa, Said ebbe l'impressione che qualcosa gli legasse la lingua e tacque, in preda alla malinconia che si sentiva crescere dentro, e per un istante subito pensò di tornare indietro e capì, senza guardarla, che lei aveva cominciato a piangere in silenzio. E a un tratto si udì la voce del mare, proprio come una volta, ma la memoria non gli tornava poco a poco, gli sembrava di portarsela dentro come le pietre di un muro crollato, ammassate una sull'altra, e anche le cose e gli avvenimenti cominciavano a sgretolarsi e lo opprimevano, e si disse che sua moglie Safia doveva provare la medesima sensazione, per questo piangeva. Da quando erano partiti da Ramallah quel mattino, Said non s'era mai stato zitto, e nemmeno lei. Mentre i campi scorrevano loro sotto gli occhi attraverso i finestrini dell'automobile, il caldo era insopportabile, si sentiva bruciare la fronte ed era come se l'asfalto friggesse sotto le ruote dell'automobile, mentre dall'alto il sole terribile di giugno, rovesciava sopra la terra tutta la sua rabbia. E per tutto quel viaggio Said non aveva fatto altro che parlare con sua moglie. Aveva chiacchierato di tutto, ma soprattutto della guerra dei sei giorni, che era finita da poco. Aveva parlato dell'esercito israeliano e di come in pochi giorni avessero sconfitto gli eserciti della Giordania, dell'Egitto e della Siria, di come in poche ore fossero arrivati al fiume Giordano, alla periferia di Damasco e al canale di Suez, e di come alla fine di quei sei giorni avessero occupato la striscia di Gaza, la Cisgiordania e la città di Gerusalemme. Aveva parlato del cessate il fuoco, dei soldati che avevano saccheggiato a destra e a sinistra, e di quegli uomini che avevano continuato a combattere per le strade di Gerusalemme dopo essersi tolte le divise. E anche sua moglie aveva parlato di molte altre cose. Per tutto quel viaggio nessuno dei due aveva lasciato languire la conversazione, quando ecco che, arrivati alle porte di Haifa, tacquero insieme. E soltanto allora si accorsero di non aver pronunciato una sola parola a proposito della faccenda per cui erano venuti. Eccola dunque la città di Haifa. Era il 30 giugno 1967, verso mezzogiorno, e la Fiat grigia con la targa bianca della Giordania si dirigeva verso nord. L'automobile saliva lungo la strada costiera diretta all'ingresso meridionale della città, quando, superato l'incrocio, imboccarono la via principale e tutto quel muro che aveva dentro gli crollò addosso. E la strada scomparve dietro un velo di lacrime. Sentì la propria voce che diceva alla moglie: "Eccola Haifa, Safia". Il volante gli pesava, stretto nelle mani più sudate di prima. Voleva dire a sua moglie che questa Haifa lui la conosceva bene, ma sentiva che la città lo ignorava. "Non avrei mai immaginato di rivederla un giorno", disse Safia. E lui le rispose: "Ma non sei tu a rivederla, sono loro che la vedono al posto tuo". Sai, erano 20 anni che immaginavo il giorno in cui le frontiere si sarebbero riaperte, però mai avrei pensato che le aprissero loro dall'altra parte. Hanno aperto le frontiere subito dopo l'occupazione. È una cosa che non è mai successa in nessun'altra guerra della storia. Perché hanno fatto una cosa simile? Per la tua bella faccia o per la mia? No, anche questo è un atto di guerra. È come se ci dicessero: "Prego, venite a vedere quanto siamo migliori di voi ed evoluti. Dovete accettare di essere i nostri servi, i nostri ammiratori". Ma lo vedi anche tu, non è cambiato niente. "E allora perché sei venuto?" E lui la guardò con rancore e lei smise di parlare. Perché poi una domanda simile? Lei lo sapeva bene perché. Proprio lei che aveva insistito per partire. Per 20 anni Said aveva evitato di parlare di quei 20 anni. E ora il passato sgorgava fuori come lava da un vulcano in eruzione. E mentre la macchina si addentrava nelle vie di Haifa, Said percepiva ancora un certo odore di guerra. Misterioso, emozionante, provocante. La gente gli sembrava di aspetto duro, feroce, e dopo un po' si rese conto che stavano camminando per la città senza notare cambiamenti nelle strade. Ne conosceva ogni pietra, ogni incrocio. Quante volte le aveva percorse con la sua Ford verde modello 46, se le ricordava bene quelle strade. Ed ecco che ora le ripercorreva in macchina come allora, come se non fosse stato assente tutti quegli anni amari. All'improvviso tutto si confuse, ma cercò di mantenersi calmo e con voce smorzata disse a sua moglie: «Bene, da dove cominciamo?» Lei continuò a tacere, ma lui la udiva piangere, sommessa. Percepiva la sofferenza sua, ma sapeva anche di non poter provare esattamente ciò che sentiva lei. Lo sapeva, inoltre, che quella sofferenza era immensa e durava da 20 anni e ora incombeva gigantesca, impensabile. Sulle viscere, sul cuore, sulla mente, sui ricordi, sull'immaginazione di Safia, e ne dominava il futuro, e Said si meravigliò di non aver mai pensato che cosa significasse per Safia quella pena che le aveva scavato rughe profonde sul viso, intorno agli occhi, sulla fronte. Chissà quante volte quel dolore l'aveva accompagnata in ogni boccone che mangiava, in ogni baracca in cui avevano abitato, in ogni sguardo rivolto al marito, ai figli o a se stessa. Ed ecco il passato affiorare. Tagliente come un coltello, Said notò un gruppo di soldati armati fermi ad un incrocio davanti ad una barriera di ferro, e mentre li sbirciava con la coda dell'occhio sentì da lontano il rumore di un'esplosione seguito da quello di una sparatoria, e subito cominciò a tremargli il volante tra le mani. Stava quasi per finire contro un marciapiede quando all'ultimo momento riuscì a riprendere il controllo. Vide un ragazzo che attraversava la strada di corsa, e fu in quell'attimo che lo spaventoso passato gli riaffiorò alla memoria con tutto il frastuono, e per la prima volta dopo 20 anni Said si ricordò tutto. Si ricordò tutti i particolari di quanto era successo, come se li stesse rivivendo lì un'altra volta. Era il mattino del mercoledì 21 aprile 1948. Haifa era una città che non si aspettava niente. Niente di particolare, anche se nell'aria da tempo regnava una tensione indefinibile, ma il bombardamento arrivò all'improvviso e arrivò da oriente. Dall'alto del Monte Carmelo cominciarono a piovere bombe di mortaio che andavano a cadere sui quartieri arabi, e le strade piombarono nel caos. Il terrore si impadronì della città mentre la gente sprangava i negozi e le finestre delle abitazioni, e Said si trovava proprio al centro della città quando il cielo di Haifa cominciò a riempirsi del frastuono, degli spari e delle esplosioni. Ma fino a mezzogiorno non pensò che si trattasse dell'attacco finale. Poi, e soltanto allora, tentò di ritornare verso casa in automobile, ma non tardò ad accorgersi che la cosa era impensabile, e si infilò quindi a piedi per le vie laterali, tentando di raggiungere la strada che portava al quartiere dove abitava. Ma i combattimenti si erano già estesi anche lì, e Said intravide uomini armati che si precipitavano dalle vie laterali in quelle principali e viceversa. E dopo qualche istante Said si rese conto che stava procedendo senza meta. I vicoli, sbarrati dalle barricate, dagli spari e dai soldati, lo costringevano a dirigersi inconsapevolmente in una determinata direzione, e se lui tentava di ritornare nella direzione principale sgusciando in qualche vicolo, era come se una forza invisibile lo spingesse verso l'unica strada, quella del mare. Said era sposato con Safia da un anno e 4 mesi, e avevano preso in affitto insieme quella casetta bellissima del quartiere che a lui era sembrato più sicuro di tutti, ed era un quartiere che si trovava su in montagna, e ora sentiva di non poterci più tornare, e si sentiva smarrito, non lo capiva più da che parte si stesse combattendo, né come né perché. Per quanto ne sapeva Said, a quell'epoca gli inglesi erano ancora i padroni della città, e mancavano 3 settimane circa all'ultima fase, quella in cui, secondo quanto stabilito da tutti, gli inglesi avrebbero dovuto cominciare a ritirarsi da Haifa. E a quel punto lui affrettò il passo, tentò affannosamente di risalire verso casa girando il centro commerciale, ma non ci riuscì. Tutto gli si confuse davanti, i nomi delle strade si aggrovigliavano, si sentiva completamente smarrito e aveva perduto completamente il senso dell'orientamento. E il bombardamento nel frattempo si era fatto ancora più intenso, anche se lui in quel momento era abbastanza lontano dagli spari. Ma senza sapere come, Said si risvegliò e si ritrovò nella città vecchia, e gli sembrò che una forza sconosciuta lo spingesse verso la parte meridionale della città. Cominciò a sentire l'odore del mare, e fu soltanto allora che si ricordò del piccolo Khaldun, di suo figlio, che proprio quel giorno, il 21 aprile del 1948, compiva 5 mesi. E in quel momento lo colse una strana angoscia, e quella era l'unica cosa di cui lui sentisse ancora il sapore sotto la lingua 20 anni dopo. Stava forse per ripetersi, ora, la stessa disgrazia di allora. Cominciava a calare sulla città al buio della sera, e Said non lo sapeva più quante ore fossero passate mentre correva di qua e di là indietreggiando da una strada all'altra. Ma soltanto allora capì che i soldati lo stavano spingendo verso il porto. I vicoli che si diramavano dalla strada principale oramai erano completamente sbarrati, e se lui tentava di buttarsi in uno di quelli per provare a ritornare verso casa, i soldati lo ricacciavano indietro con violenza, ora con le canne dei fucili e ora con le baionette. E il cielo infuocato era squarciato dal rumore degli spari e delle bombe. Il bombardamento tuonava ora vicino ora lontano, e per un istante Said ebbe l'impressione che fossero quei rumori stessi a sospingerlo verso il porto, e benché fosse oramai incapace di concentrarsi su qualsiasi cosa, si rese conto tuttavia che la calca si faceva più fitta, sempre più fitta a ogni passo. La gente oramai affluiva dalle strade laterali nella via principale ed erano tutti diretti verso il porto, e c'erano uomini, donne e bambini carichi di piccole cose o a mani vuote che piangevano o annaspavano in un cupo silenzio, trascinati da quella confusione vociante. Ero oramai perduto in un torrente, in una marea umana, e non aveva più la capacità di controllare i propri passi. A distanza di 20 anni Said se lo ricordava ancora di come fosse stato sospinto verso il mare, quasi trascinato da quella folla piangente e sconvolta, incapace di pensare ad altro. Nella sua mente in quel momento esisteva solo un'immagine, ed era come una fotografia appesa al muro, quella di sua moglie Safia e di suo figlio Khaldun, e trascorsero attimi lenti e pesanti che ora gli sembravano parte di un incubo unico, greve e assurdo. Oltrepassò il cancello di ferro che dava sul porto, dove i soldati inglesi tentavano di tenere a bada la folla disperata, e da quel punto Said vide grappoli di persone che si lasciavano cadere tutte insieme su piccole imbarcazioni ormeggiate alla banchina, che poi si ribaltavano, e non sapeva più che cosa fare, ma decise in quell'istante di non arrivare alle barche. E all'improvviso, come se fosse impazzito, come se fosse ritornato in sé dopo una lunga pazzia, si girò in mezzo alla folla e cominciò a resistere, a dare di gomito. Cercava con tutte le forze che gli restavano di aprirsi un varco nella direzione opposta, verso il cancello di ferro e verso casa. E come risalendo la corrente impetuosa di un torrente di montagna, Said si fece largo con le spalle, con le braccia, con le gambe e con la testa. La corrente umana lo trascinava indietro di qualche passo, ma poi lui si riprendeva e cominciava di nuovo ad avanzare, si buttava in avanti. Aveva addosso la furia di un animale braccato e ferito che cerchi follemente di aprirsi un varco attraverso una siepe folta e impenetrabile. Sopra di lui si innalzavano il fumo e i lamenti, al fragore delle bombe, dei proiettili, si confondeva con le grida e con la voce del mare, con lo scalpiccio dei passi senza speranza e con il rumore dei remi tuffati nelle onde. Ma davvero era accaduto tutto questo nel 1948 ad Haifa? Sì. Ora, al volante della sua macchina, che si arrampicava per la salita, Said si sentiva scendere lungo la fronte rivoli di sudore freddo. Aveva creduto di essersi liberato di quel ricordo, di quel vociare pazzesco che era l'essenza stessa di quei momenti lontani, e sbirciò la moglie con la coda dell'occhio. Safia aveva il volto teso e pallido, gli occhi erano pieni di lacrime. Nessun dubbio, si disse, che lei, anche lei, stava rievocando i momenti di quello stesso giorno, quando lui era giù vicino al mare e lei nella loro casetta nel quartiere in montagna, e tra di loro si tendeva una ragnatela invisibile di terrore e smarrimento sopra quella palude fatta di grida, di paura e di ignoto. Lei lo aveva detto tante volte negli anni passati, pensava a lui mentre si sentivano gli spari e la gente scappava gridando che gli inglesi e gli ebrei stavano occupando Haifa. E fu allora che fu colta da una paura disperata, pensava lui, quando dal centro della città, dove sapeva che si trovava il marito, le era giunto il fragore della guerra. Pensava tuttavia di essere più al sicuro lì, in casa sua, e c'era rimasta un bel po', ma quando si rese conto che l'assenza di suo marito si stava prolungando troppo, si precipitò allora in strada senza sapere bene perché, e percorse come alla cieca tutta la stradina fino alla via principale, sperando di vederlo ritornare, pronto a tranquillizzarla, a calmare i suoi timori, la sua angoscia di fronte a quel destino ignoto. È arrivata nella via principale, cominciò a scrutare tutte le macchine che correvano all'impazzata, mentre con movimenti automatici si avvicinava a un veicolo dopo l'altro, ad una persona dopo l'altra, per fare domande a cui non otteneva risposta. E tutto a un tratto si rese conto che quella marea di gente la stava trascinando via, la spingeva di qua e di là, fondendosi dai diversi quartieri della città in una gigantesca impetuosa corrente che non le consentiva più di ritornare indietro. Era un filo di paglia trascinato da un fiume in piena. Quanto tempo era passato prima che anche lei si ricordasse di Khaldun, di suo figlio, che era rimasto nella sua culla, in casa? Non se lo ricordava esattamente, ma sapeva che una forza incredibile l'aveva inchiodata al suolo, mentre la corrente umana continuava a scorrerle intorno, premendola per le spalle, come se lei si fosse trasformata in uno di quegli alberi che si vedono resistere inaspettatamente in mezzo ad una fiumana travolgente. E anche lei aveva cercato di resistere con tutte le sue energie, e sentendosi venire meno per lo sforzo sovraumano, aveva cominciato a gridare con tutto il fiato che aveva in gola, ma le sue parole volarono sopra a quella folla infinita e non trovarono un orecchio disposto ad ascoltare. Gridò, gridò, gridò mille volte la parola Khaldun, migliaia di volte. Anche a distanza di mesi quel nome continuava a salirle alle labbra, portato da una voce afona e rotta che quasi non si sentiva più. Il nome Khaldun si era trasformato in un punto isolato, nient'altro che nuotava smarrito in mezzo a un flusso di voci e di nomi, e Safia stava per cadere travolta quando aveva sentito come in un sogno una voce che la chiamava per nome, quasi scaturita dalle viscere della terra. Safia. E vedendo dietro di sé il volto di lui, che grondava sudore, collera e angoscia, capì per la prima volta tutta l'enormità di quella catastrofe, e come una pugnalata la trafisse una tristezza che le infuse una volontà incrollabile, e decise di ritornare indietro ad ogni costo. Forse sapeva che non avrebbe mai più potuto guardare negli occhi Said, forse sentiva che non avrebbe mai più potuto lasciarsi toccare da lui. Nel profondo del cuore sentiva di essere sul punto di perderli tutti e due in una volta sola, Said e Khaldun, e cominciò a farsi largo con tutta la forza che le restava nelle braccia, in mezzo a quel groviglio che le sbarrava la via del ritorno. Quanto tempo era passato prima che anche Safia si rendesse conto che lui la stava scuotendo per le braccia con le sue mani forti e asciutte. Improvvisamente lei lo guardò negli occhi e sentì che una specie di paralisi la faceva cadere addosso a lui, come uno straccio qualunque. Intorno a loro le correnti umane continuavano a sballottarle di qua e di là, sempre spingendoli verso il mare, e non riuscirono a rendersi conto di nulla fino a quando non furono bagnati dagli spruzzi sollevati dai remi, e soltanto allora si misero a guardare verso la costa, dove Haifa e Khaldun scomparivano dietro un velo di nebbia e di lacrime. Ed ora eccoli lì, 20 anni dopo, ad Haifa. Said sentiva il solito rumore sotto le ruote mentre la macchina continuava il percorso, e gli sembrava che il battito affaticato del cuore in subuglio gli venisse meno ogni tanto. 20 anni di assenza erano già svaniti un po' alla volta, ed ecco che le cose si ripetevano all'improvviso in maniera incredibile, senza ragione e senza logica. Ma che cosa stavano cercando poi? Una settimana prima, nella loro casa di Ramallah, Safia gli aveva detto: hanno riaperto le frontiere, perché non andiamo ad Haifa? E in quel momento Said stava cenando e vide la propria mano fermarsi automaticamente tra il piatto e la bocca. Spostò lo sguardo verso Safia e vide che lei si era voltata, come per non farsi leggere negli occhi una cosa, e lui le domandò: andare ad Haifa? Perché? La voce di lei gli arrivò smorzata: diamo un'occhiata alla nostra casa, la vediamo e basta. Said rimise il boccone nel piatto, si alzò e andò a fermarsi proprio davanti a Safia, che ora teneva la testa chinata sul petto come se fosse sul punto di confessare un delitto insospettato. Lui le sollevò la testa tenendola per il mento e vide che dagli occhi le sgorgavano lacrime abbondanti. Cercò di parlarle con tenerezza: Safia, cosa stai pensando? Lei scosse la testa in segno di assenso, ma non disse una sola parola, e allora Said bisbigliò con voce roca: Khaldun? E in quel momento si rese conto che quel nome in quella stanza, loro due, non lo pronunciavano più da chissà quanto tempo, e che le poche volte che ne avevano parlato avevano detto semplicemente lui. Addirittura avevano evitato di dare quel nome agli altri figli. Il più grande lo avevano chiamato Khaled, e alla bambina, che era nata 1 anno e mezzo più tardi, avevano dato il nome di Leila. E Said restò assente, immobile, sembrava addormentato. Dopo un po' si riprese e ritornò al suo posto, ma prima di sedersi disse a sua moglie: fantasie, Safia. Fantasie, non ti fare illusioni, lo sai quante domande, quante ricerche che abbiamo fatto, lo sai com'è andata con la Croce Rossa, con quelli della commissione d'armistizio, con tutti gli amici stranieri che abbiamo mandato laggiù. Io non ci voglio ritornare ad Haifa, sarebbe un'umiliazione per tutti quelli di Haifa. L'umiliazione è stata una sola, per te e per me, perché dovrebbero essere due? Perché tormentarci? I singhiozzi di lei si erano fatti più forti, ma non disse niente. E passarono quella notte senza dormire e senza parlare. Per tutta la notte tutti e due avevano pensato alla stessa cosa. Per un'intera settimana quella faccenda continuò a pesare sulle loro giornate, sulle loro notti. La inghiottivano con il cibo, la masticavano, ci dormivano sopra, ma non ne parlavano mai, finché alla fine una sera Said non le disse: va bene, Safia, andiamoci domani ad Haifa. Almeno la rivedremo. Potremo passare davanti alla nostra casa. Osservò sua moglie, vide che aveva iniziato a tremare, dagli occhi le sgorgavano lacrime abbondanti, e quando anche Said si accorse che gli si serrava la gola e gli bruciavano gli occhi per le lacrime, uscì dalla stanza, e da quel momento il nome Khaldun cominciò a ronzargli nella testa, proprio come era accaduto 20 anni prima, quando lo aveva sentito invocato da lei in continuazione sopra il brusio della folla traboccante davanti alle acque piangenti del porto. E per tutto quel viaggio da Ramallah fino ad Haifa avevano parlato di qualsiasi argomento fuorché di Khaldun, ed ecco che ora osservavano muti quelle strade che conoscevano bene, e che erano rimaste impresse loro in mente come parti della loro carne e delle loro ossa, ed esattamente come faceva 20 anni prima, Said ridusse al minimo la velocità prima di arrivare a quella certa curva che nascondeva l'inizio di una salita difficile, e sterzò alla maniera di sempre, e mentre la macchina si arrampicava lungo il pendio si preparò a superare quel punto in cui la strada si restringeva e vide i 3 cipressi là sopra. Avevano allungato rami nuovi. Per un istante pensò di fermarsi a leggere i nomi incisi sui tronchi tanto tempo prima. Stava quasi per ricordarseli uno per uno e si trattenne senza sapere come, si ricordava tutto. Passò davanti ad una porta e la riconobbe. Proprio vicino c'era passato, mentre veniva trascinato da quella folla travolgente verso il porto. Ora se lo ricordava esattamente, era stato proprio là che quel giorno di 20 anni prima Said si era ricordato di Khaldun. Il cuore gli si strinse, oppresso dai ricordi, e palpitava così forte che quasi ne sentiva il rumore. E scorse improvvisamente la casa. Proprio quella. La casa in cui erano vissuti, che era rimasta scolpita nella sua memoria. E ora ne intravedeva la facciata con i balconi dipinti di giallo, e per un istante ebbe l'impressione che una giovane Safia dai lunghi capelli intrecciati stesse per affacciarsi a guardarlo dal balcone. C'era una corda per il bucato, nuova, fissata ai paletti che sporgevano, con su appesi panni bianchi e rossi freschi di bucato. Safia scoppiò a piangere forte, lui sterzò sulla destra e sistemò la macchina al solito posto, esattamente come 20 anni prima. Said ebbe soltanto un attimo di incertezza dopo aver spento il motore, lo sapeva. Che se avesse esitato un po' di più la faccenda si sarebbe conclusa, avrebbe rimesso in moto la macchina e se ne sarebbe ritornato indietro, e così fece in modo che a lui e alla moglie le cose apparissero del tutto naturali, come se quei 20 anni trascorsi fossero finiti tra 2 presse gigantesche, polverizzandosi fino a trasformarsi in un foglio trasparente, quasi invisibile, e scese dalla macchina. Sbattendosi lo sportello alle spalle, si aggiustò la cintura mentre continuava a guardare verso il balcone, lasciò con noncuranza che le chiavi gli tintinassero in mano, e sua moglie fece il giro della macchina e andò a fermarsi proprio accanto a lui, ma lei era meno brava di lui a controllarsi. Lui la prese per un braccio, attraversarono il marciapiede, il cancelletto di ferro verde, la scala, cominciarono a salire. Senza che lui desse la possibilità alla moglie, ma nemmeno a se stesso, di osservare quelle piccole cose che, lo sapeva, li avrebbero commossi, facendogli perdere la calma e il controllo. Il campanello, il pomello d'ottone della porta, i segni di matita sul muro delle scale, il contatore dell'elettricità, il quarto scalino rotto nel mezzo, la comoda ringhiera ricurva su cui la mano scorreva facilmente, la finestra di ferro dalle griglie intrecciato, e il primo piano dove una volta abitava il loro vicino, che lasciava sempre la porta socchiusa. E i bambini ci giocavano davanti a quella porta, riempivano le scale dei loro canti, e ora quella porta di legno era inesorabilmente chiusa. Premette con il dito al campanello, mentre a bassa voce diceva a sua moglie: «Safia, hanno cambiato il campanello». Poi tacque un istante e continuò: «E naturalmente hanno cambiato anche il nome». E poi fece un sorriso. «Ebete», mentre le stringeva la mano, accorgendosi che era fredda e che tremava. E da dentro sentirono avvicinarsi dei passi lenti, strascicati. «Sicuramente una persona anziana», si disse. Il catenaccio cigolò senza far troppo rumore. La porta si aprì piano piano. Eccoci qua. Said si rimproverò per non essersi preparato prima una frase con cui cominciare, anche se da tempo sapeva che prima o poi quel momento sarebbe certamente arrivato. E così si spostò, guardando sua moglie. Lei fece 2 passi avanti e domandò: «Possiamo entrare?» Era una vecchia, piuttosto bassa e grassa. Aveva un vestito blu a pois bianchi e non capiva l'arabo. Said cominciò a tradurre in inglese. La vecchia continuò a osservarle con un atteggiamento ostile, interrogativo, e dopo un po' i suoi lineamenti si distesero e si fece da parte per lasciarli entrare. Li precedette in direzione del salotto. Said e Safia la seguirono, affiancati, lenti e indecisi, e con un certo stupore cominciarono a distinguere le cose. A Said sembrò che l'ingresso fosse più piccolo di come se lo ricordava lui e più umido. Riuscì a vedere molte cose che gli erano state familiari e che continuava a considerare tali, cose intime, private e care, che aveva sempre creduto di sua proprietà, sacra e inviolabile, pensando che nessuno potesse realmente riconoscerle come proprie o toccarle o anche solo guardarle. E vide la foto di Gerusalemme. Era appesa ancora lì, dove l'aveva messa lui 20 anni prima, quando abitava in quella casa. E sul muro di fronte c'era il piccolo tappeto di Damasco, anch'esso rimasto al suo solito posto. Fece qualche passo, guardandosi intorno e scoprendo le cose a poco, oppure tutte in una volta, come chi riprende conoscenza dopo un lungo svenimento. E quando entrarono nel salotto, poté constatare come 2 delle 5 sedie fossero le sue. Le altre 3 le aveva comprate Miriam, così si chiamava la vecchia signora. Erano nuove. Sembravano disposte a casaccio. Non andavano d'accordo con lo stile di tutto il resto. E in mezzo alla stanza vide che c'era lo stesso tavolino, intarsiato di madreperla, un po' sbiadito. E sopra il vaso di vetro era stato sostituito con un altro, anch'esso nuovo, di legno, in cui erano ancora infilate alcune penne di pavone. Said sapeva che dovevano essere 7, le aveva comprate lui, e cercò di contarle restando seduto, ma non ci riuscì. Si alzò, si avvicinò al vaso di fiori e cominciò a contarle una per una, ma erano soltanto 5. Quando si voltò per tornare al suo posto, si accorse che le tende erano cambiate. Quelle lavorate all'uncinetto da Safia 20 anni prima, con il filo color bianco sporco, erano scomparse. Erano state sostituite da grandi tende bianche a strisce azzurre. Il suo sguardo si soffermò su Safia e la vide sconcertata. Lei stava frugando con gli occhi in ogni angolo della casa, come contando le cose di cui sentiva nostalgia. E la vecchia signora, che era sì vecchia ma abbastanza robusta, si era seduta proprio davanti a loro, sul bracciolo di una poltrona, e continuava a guardarli con un sorriso privo di significato. E poi finalmente, senza modificare quel sorriso, disse: «È molto che vi aspetto». Il suo inglese era stentato, aveva un accento quasi tedesco, e sembrava che tirasse fuori le parole da un pozzo molto profondo e quasi in rovina. Said si piegò in avanti e domandò: «Sa chi siamo?» La vecchia annuì ripetutamente, come se volesse sottolineare quell'affermazione. Rifletté un po', scegliendo le parole, e poi disse con calma: «Voi due siete i veri proprietari di questa casa, lo so». «E come lo sa?» «Da ogni cosa», rispose la vecchia. «Dalle fotografie, dal modo in cui vi siete fermati davanti alla porta. Per la verità, da quando è finita questa guerra, sono venuti molti qui. Molti arabi. Hanno cominciato a guardare le case, a chiedere di entrare. Io ogni giorno mi dicevo che sareste venuti anche voi. E oggi, quando ho sentito suonare il campanello...» E improvvisamente tacque. Sembrava perplessa e cominciò anche lei a guardare tutti gli oggetti che erano sparsi per quella stanza, ma sembrava che li vedesse per la prima volta. E senza rendersene conto, Said cominciò a seguire lo sguardo di lei, accompagnando negli spostamenti. Safia fece lo stesso e lui si disse: «Che strano. 3 paia di occhi che guardano la stessa cosa e come la vedono diversa». E all'improvviso la vecchia disse, con una voce molto più rauca e più lenta: «Mi dispiace. Mi dispiace, ma le cose sono andate così. Io non ho mai pensato alla questione come adesso». E Said fece un sorriso amaro. Non sapeva come spiegarle che non era venuto per questo, che non voleva mettersi a fare una discussione politica, e che lo sapeva che non era colpa sua. Non è colpa sua? No, non proprio. Ma come fare a spiegarglielo? E fu Safia a toglierlo dall'imbarazzo, domandando con voce innocente e ambigua, mentre lui cominciava a tradurre: «Da dove siete venuti?» «Dalla Polonia». «Quando?» «Nel 1948». «Quando esattamente?» «Il 1° aprile del 1948». E calò un silenzio pesante. Tutti si misero a guardare dove non c'era niente di importante che attirasse lo sguardo, e fu Said a rompere quel silenzio, dicendo con calma: «Naturalmente noi non siamo venuti qui a dire vattene via di qua. Ci sarebbe bisogno di una guerra per questo». E Safia lo tirò per una mano che lasciasse stare quell'argomento, e Said capì e cercò parole diverse per affrontare la questione. «Voglio dire che la vostra presenza qui, in questa casa, la nostra casa, mia e di Safia, questo è un altro discorso. Noi siamo venuti qui soltanto per vedere. Per vedere queste cose nostre. Forse lei lo può capire. E la vecchia intervenne subito. Io lo capisco, ma... Che cosa ma? Che cosa ma? C'è sempre questo ma! E poi tacque Said, sotto il peso di un'occhiataccia di sua moglie, e si rese conto che non sarebbe mai riuscito nel suo intento. In quella stanza regnava un imbarazzo incredibile, non si poteva ignorare. Quel dialogo era semplicemente assurdo. A quel punto non c'era più niente da dire. E per un istante ebbe voglia di alzarsi e andarsene, non gliene importava più niente che suo figlio Khaldun fosse vivo o morto, ma che cosa cambiava? E fu colto di nuovo da una collera forte e amara, si sentiva sul punto di scoppiare, senza sapere come. Gli cadde di nuovo lo sguardo su quelle 5 penne di pavone infilate nel portafiori di legno in mezzo alla stanza, e così, sgarbatamente, all'improvviso domandò: lì c'erano 7 penne, dove sono finite le altre 2? E la vecchia seguì il suo sguardo e poi tornò a guardarla in faccia con aria interrogativa, mentre lui restava lì con il braccio teso a indicare il vaso di fiori in attesa di una risposta, come se tutto l'universo dipendesse da quelle parole e da quelle 2 penne di pavone. E così la vecchia si alzò, si avvicinò al vaso e lo toccò, ma sembrava che lo facesse per la prima volta nella sua vita, e poi rispose tranquilla: io non lo so che fine abbiano fatto le 2 penne di pavone di cui lei parla. È una cosa che proprio non riesco a ricordarmi. Tacque un istante, prese tutto il coraggio che aveva e proseguì: ma forse è stato Dove che ci ha giocato quando era piccolo, le avrà perdute lui. E Said e Safia, come se la terra li avesse scaraventati in alto, esclamarono insieme: Dove! E poi si interruppero. La fissarono tesi mentre lei proseguiva: sì, Dove. Io non lo so come si chiamasse prima quel bambino, ma se la cosa la può interessare, disse rivolta a Said, Dove le assomiglia moltissimo. Finalmente, dopo 2 ore di conversazione discontinua, una ricostruzione plausibile dei fatti. Quello che era successo si era verificato, e nei pochi giorni compresi tra la notte di quel 21 aprile 1948, giorno in cui Said e Safia erano stati cacciati da Haifa, e il giovedì 29 aprile 1948, giorno in cui un militare della Ghana, accompagnato da un altro ufficiale più anziano che di faccia assomigliava a un pollo, avevano spalancato la porta della casa di Said e Safia per fare strada a Efrat Koshen e a Miriam Koshen, ebrei, immigrati dalla Polonia, per introdurli in quella che da quel giorno sarebbe diventata la casa affittata loro dall'ufficio per i beni dei proprietari assenti di Haifa. Efrat Koshen era arrivata ad Haifa tramite l'agenzia ebraica, alla quale si era rivolta insieme con la moglie in un mattino di marzo del 48, subito dopo essere sceso da una nave su cui si era imbarcato in un porto italiano. Erano partiti da Varsavia alla fine di novembre del 47, con una piccola carovana erano arrivati fino in Italia, e ai primi di marzo del 48, insieme ad altri uomini e donne, li avevano fatti imbarcare alla volta di Haifa, dove una volta arrivati li avevano sistemati provvisoriamente in una stanzetta di un edificio gremito di persone che loro avevano ribattezzato Hotel degli Immigrati. E a dir la verità, a quell'epoca Efrat Koshen non ne sapeva molto della Palestina. Per quello che lo riguardava, era semplicemente il teatro. Il teatro di antiche leggende in cui sopravvivevano ancora le medesime scene che lui aveva visto raffigurate in Europa tante volte sui libri a colori destinati alla lettura dei bambini cristiani. D'altra parte non era poi del tutto convinto che quel piccolo fazzoletto di terra fosse semplicemente un deserto disabitato, riscoperto dall'agenzia ebraica dopo 2000 anni, ma non era questa la cosa che lo interessasse di più in quel momento. E forse era perché si era abituato al rumore degli spari subito dopo essere uscito dal porto di Haifa alla fine della prima settimana di marzo del 48, che non si era reso conto che proprio in quei giorni stava accadendo qualcosa di spaventoso. D'altra parte, lui non aveva mai visto un arabo in tutta la sua vita, e tutto questo aveva contribuito a fargli conservare per tutta la durata di quel periodo difficile un'immagine singolarmente vaga di quello che stava realmente accadendo. E per questo i combattimenti di cui lui sentiva i rumori e di cui leggeva ogni mattina il resoconto sul Palestine Post gli sembravano una cosa che si svolgesse fra uomini e fantasmi, nulla di più. E dove si era trovato esattamente? Quel mercoledì 21 aprile 1948, nell'ora in cui Said si era smarrito cercando di tornare a casa e Safia era stata sospinta giù verso il porto. Non riusciva più a ricordare la faccenda nei suoi vari particolari, ma ciò malgrado aveva ben presente che l'attacco era cominciato proprio il mattino del mercoledì ed era continuato ininterrottamente fino alla notte del giovedì, e soltanto all'alba del venerdì 23 aprile 1948 Efrat Koshen ebbe la sicurezza che tutto fosse finito ad Haifa e che la Ghana avesse il completo controllo della situazione. situazione, ma che cosa fosse successo esattamente lo ignorava. Era rimasto chiuso in albergo per 2 giorni, il mercoledì e il giovedì. A tutti erano state date istruzioni di non muoversi. Qualcuno di loro aveva provato a uscire il venerdì mattina, ma Efrat no. Lui era rimasto chiuso in albergo fino a sabato, e quando alla fine, quel mattino di sabato, uscì, si meravigliò. Si meravigliò perché non vide in giro nessuno, nemmeno una macchina, e dentro di sé pensò: Shabbat. Oggi è un vero sabato ebraico. E gli vennero le lacrime agli occhi per un motivo che non riusciva bene a spiegarsi. Fu colpito dalle parole di sua moglie, anche lei aveva gli occhi pieni di lacrime. Ma io piango per un'altra cosa, disse Miriam. Guarda, guarda, oggi è un sabato vero, ma qui da domani non ci sarà più un vero venerdì e neppure una vera domenica, e quello era stato soltanto l'inizio. Per la prima volta da quando avevano messo piede in Palestina, la moglie gli aveva sbattuto in faccia qualcosa di inquietante di cui lui non aveva tenuto conto, a cui si era sempre rifiutato di pensare, e improvvisamente le tracce della catastrofe che cominciava a scorgere assunsero un altro aspetto e un altro significato. Ma Efrat Koshen si rifiutò di lasciarsene angosciare, addirittura di pensarci sopra. Ma per sua moglie Miriam, che da quel giorno era cambiata, la cosa era diversa. Miriam era cambiata. Era cambiata da quando, quel giorno, girando intorno alla chiesa di Betlemme, nel quartiere di Adar, aveva visto con i suoi occhi 2 militari della Ghana che trasportavano qualche cosa a un camioncino che era fermo lì davanti. Era stato soltanto un attimo, ma Miriam aveva visto e si era aggrappata forte al braccio del marito, aveva esclamato: guarda laggiù. E quando lui aveva guardato laggiù dove lei indicava, non aveva visto niente. Aveva visto soltanto quei 2 giovani che, chiacchierando, si pulivano le mani sui lembi della camicia color khaki, e Miriam aveva esclamato: era un bambino arabo morto. L'ho visto con i miei occhi, era ricoperto di sangue. Il marito la portò dall'altra parte del marciapiede e le domandò: come fai a sapere che era un bambino arabo? E lei: non hai visto come l'hanno buttato su quel camion? Come un pezzo di legno qualunque. Se fosse stato ebreo, non avrebbero fatto così. Il marito avrebbe voluto chiederle perché diceva quelle cose, ma la guardò in viso e tacque. Miriam aveva perduto suo padre 8 anni prima nel campo di concentramento di Auschwitz, e ancora prima, quando i soldati tedeschi avevano fatto irruzione nella casa in cui lei viveva col marito. In quel momento lui non c'era, lei si era rifugiata dai vicini al piano di sopra, così i tedeschi non avevano trovato nessuno ed erano andati via. Ma scendendo le scale si erano imbattuti nel suo fratellino di 10 anni, che stava andando da lei forse per dirle proprio che il padre era stato portato via e lui era rimasto solo. E di fronte ai soldati il bambino si era spaventato, era scappato via, e dalla finestrella stretta e lunga che dava sulle scale Miriam aveva visto tutto. Aveva visto come gli sparavano, e quando quel giorno del 48 ritornarono insieme all'albergo degli immigrati, Miriam aveva già deciso. Voleva andare via, voleva ritornare qui in Italia, ma non riuscì a convincere il marito quella notte e nemmeno la settimana successiva. E poi le cose cambiarono di nuovo, e cambiarono all'improvviso nel giro di pochi giorni, perché un bel mattino Efrat ritornò dall'ufficio dell'agenzia ebraica e aveva portato con sé 2 notizie meravigliose. Gli avevano assegnato una casa proprio lì, in un quartiere tranquillo, in montagna, ad Haifa, e insieme con la casa gli davano in adozione un bambino di 5 mesi. Che era stato ritrovato proprio lì, in una culla, in quella casa. E per Efrat questa fu una sorpresa meravigliosa, perché lui desiderava ardentemente adottare un bambino. Lo desiderava da quando si era accertato, senza possibilità di dubbio, che Miriam era una donna sterile, non poteva avere figli. E arrivò in quel momento addirittura a convincersi che era tutto vero. Si trattava di un incredibile dono divino che gli concedeva ogni bene in una volta sola: la terra, la casa e il bambino. E non c'era dubbio che con un figlio Miriam sarebbe cambiata e l'avrebbe finalmente smessa con tutte quelle strane idee che continuavano a ossessionarla da quando, girando intorno alla chiesa di Betlemme, aveva visto quel bambino arabo ucciso e gettato sul camion come un pezzo di legno qualunque. E fu così che il giorno 29 aprile 1948, accompagnati da un ufficiale della Ghana che di faccia assomigliava a un pollo, Efrat Koshen e Miriam Koshen entrarono nella casa di Said e Safia ad Haifa, portando con sé il piccolo Khaldun, che da quel giorno divenne Dov, di soli 5 mesi. Volete un caffè? Said non lo assaggiò nemmeno. Safia si limitò a berne un sorso dopo aver preso un dolce dalla scatola che la vecchia le aveva offerto, sempre sorridendo. Said continuò a guardarsi intorno. La sua perplessità era andata aumentando man mano che ascoltava le parole di Miriam, e per un tempo che gli sembrò molto lungo, lui e Safia restarono seduti, inchiodati al loro posto, come in attesa di qualcosa di ignoto e inimmaginabile. «E quando arriverà?» chiese Said. Di solito dovrebbe tornare a casa quest'ora, rispose Miriam. Ma potrebbe anche fare tardi, non è mai arrivato puntuale in tutta la sua vita. In questo è proprio come suo padre. E Said si sentì attraversare da un fremito, come suo padre. Come suo padre. Si prese la testa tra le mani, cercando di fermare quel folle turbinio provocato da quella domanda. Che cos'è la paternità? Che cos'è la paternità? Da quella domanda che aveva lasciato abbandonata in un angolo della sua mente, senza osare affrontarla per 20 anni. Miriam si fece avanti. Aveva l'aria di stare per dire qualche cosa di impegnativo, e poi lentamente cominciò a tirare fuori quelle sue parole che sembravano issate fuori dal fondo di un pozzo pieno di polvere. Ascolti, signor Said, voglio dirle qualche cosa di importante. È proprio per questo che ho voluto che lei aspettasse Dove, o Khaldun se preferisce. Per questo abbiamo parlato, per concludere la questione come il destino vorrà. Non crede che sia un problema per me, così come lo è per lei. Per tutti questi 20 anni io mi sono sentita disorientata, e ora io voglio che tutto questo si concluda. Io lo so benissimo che lei è suo padre, ma so anche che lui oramai è figlio nostro. E allora lasciamo che sia lui a scegliere. È già adulto oramai, e noi dobbiamo riconoscere che l'unico ad aver diritto di scegliere è lui. Said cominciò a camminare per tutta la stanza. Alla fine si fermò davanti al tavolino intarsiato di madreperla, proprio nel centro, e si mise di nuovo a contare quelle penne di pavone infilate nel portafiori di legno che c'era appoggiato sopra, e non aprì bocca, come se non avesse ascoltato nemmeno una sillaba delle parole di Miriam. Alla fine si rivolse a sua moglie per spiegare ciò che aveva detto la vecchia, al che lei si alzò e con voce tremante disse: «È una decisione giusta. Io sono convinta che Khaldun sceglierà i suoi genitori veri. Non potrà rinnegare la voce della carne e del sangue». Ma Said scoppiò a ridere, di una risata forte e amara che sapeva di delusione. Ma quale Khaldun, Safia? Ma quale Khaldun? Dici che è una decisione giusta. Ma di che carne e sangue vai parlando? Sono 20 anni che gli insegnano come si deve comportare, quando mangia, quando beve, quando dorme. E poi tu dici che è una decisione giusta. Ma Khaldun, o Dove, o il diavolo se preferisci, nemmeno ci conosce. Vuoi sapere come la penso? Andiamocene via e torniamo al passato. La faccenda è finita, ce l'hanno rubato. E Safia crollò a sedere come se d'un tratto avesse capito il nocciolo della questione. Le parole di suo marito le sembravano del tutto ragionevoli, ma non poteva fare a meno di aggrapparsi a quegli invisibili fili di speranza che per 20 anni aveva intrecciato nelle sue illusioni come prezzo per tacitare la sua coscienza. E il marito continuò: «Forse non lo sa nemmeno di essere nato da genitori arabi. O forse lo sa da appena una settimana, o da un mese, o da un anno. Che cosa credi? Lo hanno ingannato. Forse è diventato più fanatico di loro. Il delitto è cominciato 20 anni fa e ora non possiamo fare a meno di pagarne il prezzo. È cominciato quando lo abbiamo abbandonato. Ma noi non lo abbiamo abbandonato, e tu lo sai. E invece sì. E non dovevamo farlo. Non dovevamo abbandonare niente. Né Khaldun, né questa casa, né Haifa. Non hai provato anche tu quella sensazione terribile che mi ha colpito mentre passavamo per le vie di Haifa? Io le riconoscevo, ma sentivo che loro mi ignoravano. E ho provato la medesima sensazione entrando in questa casa. Qui, questa è casa nostra, ma ci ignora. Non hai anche tu questa sensazione? Io credo che con Khaldun sarà la stessa cosa, vedrai». Safia scoppiò a piangere miseramente. Miriam uscì dalla stanza, che improvvisamente si era riempita di una tensione tangibile, e Said si rese conto che le mura in cui era stato costretto a vivere per 30 anni, per 20 anni, stavano crollando, lasciandogli vedere più chiaramente le cose. Aspettò ancora qualche istante finché il pianto di Safia si fu placato, e poi le domandò: «Lo sai che cosa è successo a Faris Labda, al figlio di Labda, il nostro vicino? Lo sai che cosa gli è capitato una settimana fa, quando ha deciso di tornare a vedere la sua vecchia casa a Jaffa? Quel pomeriggio, quando Faris Labda arrivò a Jaffa, la città gli sembrava identica a come l'aveva conosciuta 20 anni prima, da quando aveva bussato alla porta fino al momento in cui aveva sentito il rumore dei passi di un uomo che andava ad aprire. Passarono appena pochi attimi, ma dentro di lui si allungarono in secoli di tristezza e di rabbia impotente e paralizzante. Ma alla fine la porta si aprì. L'uomo, alto e olivastro, dalla camicia bianca sbottonata, tese la mano per stringere quella dello sconosciuto che lo aspettava davanti alla porta, ma Faris Labda finse di non vedere quella mano tesa, e con quella calma che lascia trapelare le tracce dell'ira disse: «Sono venuto a dare un'occhiata alla mia casa. Questa è casa mia, E il fatto che tu ci stia dentro è soltanto una triste commedia del destino che un giorno finirà. Con la forza delle armi, se vuoi, mi puoi anche sparare subito. Ma questa è casa mia e sono 20 anni che aspetto per poterci ritornare. Quell'uomo che stava sulla soglia con la mano ancora tesa scoppiò a ridere fragorosamente. Avvicinandosi a Farislav, allargò le braccia e gli disse: non c'è bisogno che tu te la prenda con me. Sono arabo, anch'io, e di Jaffa, proprio come te. E ti conosco. Tu sei il figlio di Labda. Entra, vieni a prendere un caffè. E Farislav entrò, sbalordito. Quasi non ci credeva. Era proprio la stessa casa, con tutti i mobili al loro posto, gli stessi colori delle pareti e tutti gli oggetti che si ricordava benissimo. L'uomo lo condusse verso il soggiorno senza nascondere un largo sorriso, aprì la porta e lo fece passare. Farislav restò inchiodato al pavimento e tutto a un tratto gli occhi gli si riempirono di lacrime. Il soggiorno era rimasto immutato, come se lui lo avesse lasciato quel mattino stesso, e c'era l'odore di sempre, l'odore del mare che gli dava l'ebbrezza di mondi sconosciuti da sfidare e conquistare, ma non era questo a tenerlo inchiodato lì. Sulla parete di fronte, dipinta di un bianco sgargiante, c'era ancora appeso il ritratto, l'unico in tutta la stanza, di suo fratello Badr. E nell'angolo destro c'era ancora il largo nastro nero. Improvvisamente irruppe in quella stanza la stessa atmosfera di lutto che c'era stata 20 anni prima. Sulle guance di Farislav, che era rimasto immobile, cominciarono a scorrere le lacrime, e soltanto allora si ricordò di quei giorni passati. Suo fratello Badr era stato il primo ad arruolarsi nella lotta in quelle prime settimane di dicembre del 47 nella zona di Agmi. Badr si era gettato nella lotta come se avesse aspettato quel momento fin dall'infanzia. Il 6 aprile del 1948 Badr veniva condotto a casa, portato a spalle dai suoi compagni. Aveva ancora la pistola alla cintola, mentre il suo fucile era rimasto sulla strada di Tel Rish, distrutto dalla stessa bomba che aveva dilaniato il suo corpo. Tutta la gente di Agmi aveva accompagnato Badr alla sua tomba come dovere dei compagni di un martire. E poi qualcuno portò una fotografia ingrandita e preparò un piccolo cartello su cui c'era scritto che Badr Labda era morto da martire per la liberazione della propria patria, della Palestina. E al corteo funebre c'era un bimbo che portava quel cartello e altri due che portavano la foto. La sera la foto venne portata a casa, dove fu appesa con un nastro nero legato sull'angolo destro in segno di lutto. E Farislav se lo ricordava ancora, di come sua madre avesse tolto tutti gli altri quadri dalle pareti per lasciare soltanto il ritratto di suo fratello Badr. E si era sparso nella stanza da quel momento l'odore triste del lutto, e c'era sempre gente che andava a sedersi a guardare quella foto e a fare le condoglianze. L'uomo disse a Farislav: entra, accomodati, parliamo un po', è tanto tempo che vi aspettiamo, avremmo preferito vedervi in un'altra occasione. Farislav aveva la sensazione di camminare in un sogno incredibile. Si sedette su una sedia di fronte al ritratto di suo fratello ed era la prima volta che lo vedeva in 20 anni. Non riusciva a dire niente, quando a un certo punto entrarono nella stanza due bambini che cominciarono a rincorrersi tra le sedie per poi scappar fuori schiamazzando così come erano entrati. E l'uomo disse: sono Saad e Badr, i miei due figli. Badr, sì, gli ho dato il nome di tuo fratello martire. Io sono di Jaffa e nella guerra del 48 una bomba di mortaio mi ha distrutto la casa, e ora non starò a spiegarti come Jaffa è caduta e di come quelli che dovevano aiutarci al momento più critico si sono ritirati. La cosa importante è che quando siamo tornati qui con i combattenti siamo stati chiusi in un campo di concentramento, e quando mi hanno liberato io mi sono rifiutato di lasciare Jaffa e ho trovato questa casa e l'ho presa in affitto dal governo, e la prima cosa che ho visto entrando in questa casa è stata la fotografia. E forse è proprio per questo che ho affittato la casa, per la fotografia. È una cosa complicata, non te la so spiegare, ma quando hanno occupato Jaffa la città era quasi vuota. Quando sono uscito di prigione mi sentivo circondato, non ho visto un solo arabo qui. Ero solo, come un'isoletta sperduta in mezzo alla furia di un mare ostile. E io ho trovato conforto in quella foto quando l'ho vista. Ho trovato in lei un compagno che mi parlava, che mi rivolgeva la parola e mi faceva ricordare le cose di cui ero fiero, quelle che mi sembravano le più importanti della nostra vita. E così è rimasta lì. È rimasta. È diventata un pezzo della nostra vita. Tuo fratello e noi. Una sola famiglia vissuta insieme per 20 anni. Per noi è stata una cosa importante. E Farislav restò seduto fino a mezzanotte a guardare suo fratello che sorrideva dalla foto sotto quel nastro nero, nel fiore della sua giovinezza, come faceva da 20 anni, e quando si alzò per andarsene domandò se poteva riprendersi la foto, e l'uomo gli disse: ma certo che puoi, dopo tutto è tuo fratello, anzi prima di tutto. Si alzò, staccò la foto e vide l'impronta che aveva lasciato sul muro, di un bianco sbiadito e insignificante come un vuoto angoscioso, e Faris Labda la portò con sé in macchina e riprese la via per Ramallah e la guardò per tutto quel viaggio appoggiata sul sedile accanto a sé. Badr sbirciava dalla foto sorridendo con quel sorriso giovane e radioso, e sorrise per tutto il viaggio fin dopo Gerusalemme, già sulla strada di Ramallah. E soltanto allora Faris capì e domandò all'autista di riportarlo a Jaffa, dove arrivò in mattinata. Salì di nuovo le scale a passo lento, bussò alla porta e riconsegnò la foto al suo nuovo proprietario. E nel prenderla dalle sue mani, l'uomo disse: quando ho visto quello spazio sul muro ho sentito un vuoto angoscioso. Mia moglie è scoppiata a piangere, i miei bambini sono rimasti sconvolti. Io non mi sarei mai immaginato una cosa simile. Mi sono pentito di averti lasciato prendere la fotografia. In fin dei conti, lui è proprio nostro. Ha vissuto con noi e noi abbiamo vissuto con lui, e lui è diventato parte di noi. Questa notte ho detto a mia moglie che aspettava a voi, se volevate riprenderla, se volete riavere Jaffa e questa casa e noi. La fotografia non risolve il vostro problema, ma per noi è il ponte che porta da voi a noi e da noi a voi. E Faris Labda se ne tornò a Ramallah da solo. Ah, Faris Labda adesso ha preso le armi. Era quasi mezzanotte. Dalla strada arrivò il rombo di un motore. Miriam, il volto sbiancato da un improvviso pallore, si alzò, si avvicinò a passo lento alla finestra, scostò delicatamente la tenda e poi annunciò con voce tremante: eccolo. Dove è arrivato? Il rumore dei passi che salivano per le scale era quello di un giovane ma stanco, e Said li seguiva con i nervi tesi, uno per uno, su per le scale, da quando aveva sentito sbattere il cancello di ferro e poi tirare il catenaccio, e gli sembrarono attimi interminabili. Il silenzio gli riempiva la testa di un ronzio pazzesco, insopportabile, e poi udì il rumore della chiave che girava nella serratura. E soltanto allora si voltò nella direzione di Miriam, che restava seduta, pallida e tremante. Said non aveva abbastanza coraggio per guardare sua moglie Safia e fissò il suo sguardo sulla porta, sentendosi sgorgare il sudore tutto in una volta da ogni poro della pelle. E dal corridoio veniva il rumore di passi cauti e un po' titubanti, e poi arrivò una voce indecisa, a metà soffocata: mamma. E Miriam ebbe un fremito, cominciò a strofinarsi le mani. Said si accorse che sua moglie soffocava i singhiozzi con un suono quasi impercettibile. Fuori i passi rallentarono un po', come in attesa di qualcosa. E poi arrivò di nuovo la medesima voce. Quando tacque, Miriam cominciò a tradurre con voce bassa e tremante: mi domanda come mai sono ancora in salotto a quest'ora. I passi ripresero in direzione della stanza, la porta era socchiusa. Miriam disse in inglese: vieni qui, Dove, ci sono degli ospiti che ti vogliono vedere. La porta del salotto si aprì lentamente e a prima vista Said non poteva credere ai propri occhi. Vicino alla porta c'era poca luce, ma l'uomo si fece avanti, era alto, teneva un berretto in mano e aveva addosso la divisa dell'esercito israeliano. A Said balzò in piedi come se una scarica elettrica l'avesse fatto schizzar via dalla sedia. Lanciò un'occhiata a Miriam e con voce tesa domandò: è questa la sorpresa? È questa la sorpresa che voleva farci aspettare? E Safia si girò verso la finestra singhiozzando e si nascose il volto tra le mani. Quanto al giovane alto, era rimasto immobile davanti alla porta e spostava lo sguardo dall'uno all'altro dei tre, sconcertato. Intanto Miriam si era alzata e con voce lenta e forzatamente calma gli disse: voglio presentarti i tuoi genitori veri. Il giovane fece lentamente un passo avanti e subito cambiò espressione. Sembrava che tutto a un tratto avesse perso completamente tutta la fiducia in se stesso. Poi si guardò l'uniforme e lanciò un'occhiataccia a Said, che era rimasto fermo davanti a lui e lo fissava. E infine, con voce malferma, si rivolse a Miriam: io non conosco altra madre all'infuori di te. Quanto a mio padre, si chiamava Efrat ed è stato ucciso 11 anni fa nel deserto del Sinai. Non conosco nessun altro all'infuori di voi due. Said fece 2 passi indietro e tornò a sedere al suo posto. Prese la mano di Safia tra le sue. Dentro di sé era sbalordito dalla rapidità con cui era riuscito a recuperare la calma. Se appena 5 minuti prima qualcuno gli avesse detto che se ne sarebbe stato lì seduto così calmo, non ci avrebbe creduto, ma oramai tutto era cambiato. E per qualche lungo istante in quella stanza regnò un'immobilità assoluta. e poi il giovane prese a camminare piano. Faceva 3 passi verso il centro della stanza, altri 3 verso la porta e poi ritornava al centro della stanza e appoggiò il suo berretto, un basco, bordeaux, sul tavolino, proprio accanto al portafiori di legno con infilate le penne di pavone. C'era qualcosa di incongruo, quasi ridicolo in quell'immagine. Said ebbe l'impressione di assistere a un dramma minuziosamente preparato in anticipo e gli vennero in mente scene drammatiche di film scadenti, escogitate per provocare tensioni da 4 soldi. Il giovane si avvicinò a Miriam e con voce che si sforzava di essere perentoria, definitiva e perfettamente chiara le domandò: che cosa sono venuti a fare? Non mi dirai che sono venuti a riprendermi? Con lo stesso tono Miriam rispose: domandola loro. E come un pezzo di legno il giovane si voltò di scatto e quasi eseguendo un ordine militare interrogò Said: che cosa vuole, signore? Said mantenne la calma. In quel momento una buccia sottile che nascondeva fiamme invisibili con voce sommessa rispose: niente, non voglio niente. Era solo curiosità, si sa. E calò un silenzio improvviso, rotto dai singhiozzi di Safia, che sembrava provenissero dalla poltrona di uno spettatore molto commosso. Il giovane spostò di nuovo lo sguardo da Said a Miriam, al suo berretto appoggiato vicino al portafiori di legno, e poi indietreggiò. Sembrava che qualcosa lo spingesse con forza verso la sedia vicina a Miriam, e alla fine ci si sedette sopra dicendo: no, è assurdo, è incredibile. Con la sua calma inaspettata, Said domandò: sei nell'esercito? E contro chi combatti? Perché? Il giovane balzò in piedi di scatto e aggredì Said. Lei non ha il diritto di farmi queste domande. Lei sta dall'altra parte. Io sto dall'altra parte? E scoppiò a ridere. E si rese conto che con quella risata fragorosa aveva buttato fuori tutta la paura, la tensione, la tristezza, la tragedia che aveva in corpo. Non mi pare che ci sia niente da ridere, disse Dove. E a me sì, rispose Said, rise ancora per qualche istante e poi smise improvvisamente così come aveva cominciato. Si appoggiò allo schienale della sedia e si rese conto che in questo modo riacquistava la calma. Si accese una sigaretta. Scese un lungo silenzio e alla fine Safia, che si era calmata, disse a bassa voce: non ti rendi conto che siamo i tuoi genitori? E nessuno capì a chi fosse rivolta la domanda, perché era in arabo. Senza dubbio Miriam non la capiva, nemmeno il giovane alto. Quanto a Said, non replicò. In quel momento aveva finito la sua sigaretta, si alzò e andò in direzione del tavolo per spegnerla, e per farlo dovette spostare il basco dell'esercito israeliano. Lo fece con un sorriso ironico e tornò a sedere. E allora il giovane disse con una voce completamente cambiata: va bene, dialoghiamo da persone civili. E Said sorrise di nuovo. Ma tu non vuoi dialogare. Tu non vuoi dialogare. Hai appena detto che io sto dall'altra parte, oppure che ci stai tu. E ora che cosa succede? Vuoi dialogare? Il giovane cominciò a parlare e sembrava che in realtà si fosse preparato quelle frasi da tantissimo tempo. Io ho saputo solo 3 o 4 anni fa che Miriam ed Efrat non erano i miei genitori veri. Ma io sono ebreo fin dall'infanzia. Vado alla sinagoga, vado alla scuola ebraica, mangio kasher, studio l'ebraico, e quando mi hanno detto che non ero sangue loro, per me non è cambiato niente. Niente. E quando poi in seguito mi hanno detto: i tuoi veri genitori sono arabi, non è cambiato niente lo stesso. Niente, questo è sicuro. L'uomo, in fin dei conti, disse Dov, vive per la propria causa. È proprio quello che mi passava per la testa in questo istante, lo interruppe Said. Che cosa? Che l'uomo vive per la propria causa? Esattamente. E allora perché è venuto a cercarmi? Non lo so. Non lo so. Forse perché non lo sapevo. O forse per esserne sicuro, non lo so. Il giovane alto ricominciò a camminare per la stanza, stringendosi le mani dietro la schiena. 3 passi verso la porta e 3 passi verso il tavolo. In quel momento, in realtà, dava l'impressione non di essere un soldato, ma di essere un attore. Un attore che aveva imparato a memoria un lungo monologo e non riusciva più a continuare perché qualcuno l'aveva interrotto. Sembrava che, senza farsi vedere da nessuno, si ripetesse in silenzio tra sé la prima parte per riuscire a continuare. E alla fine trovò le parole e si rivolse a Said. Dopo aver saputo che voi eravate arabi, che i miei veri genitori erano arabi, io mi chiedevo sempre tra me e me come possono il padre e la madre di un bambino di 5 mesi abbandonarlo nella sua culla e scappare. Come possono una donna che non è sua madre e un uomo che non è suo padre allevarlo ed educarlo per 20 anni? Ha qualcosa da dire, signore? No. Bene. Io ora sono nella riserva, proseguì Dov. Finora non mi è capitato di trovarmi in prima linea, in combattimento, tanto da poterle descrivere i miei sentimenti, ma chi lo sa, forse un giorno in futuro avremo modo di confermare personalmente quanto sto per dirle. Che io sono da questa parte. Io sono di qua. Questa signora è mia madre. A voi due io non vi conosco, non vi ho mai visto, non so neanche chi siete, non vi conosco e verso di voi non provo nessun sentimento particolare. Non hai bisogno di descrivermi i tuoi sentimenti futuri. Forse il tuo primo combattimento lo farai contro un fedain di nome Khaled. E Khaled è mio figlio. Spero tu abbia notato che non ho detto che è tuo fratello. L'uomo, come hai già osservato tu, vive per la propria causa. E la settimana scorsa Khaled si è arruolato tra i fedain. Lo sai perché lo abbiamo chiamato Khaled e non Khaldun? E Said si alzò pesantemente. Ora soltanto si sentiva stanco e sentiva di aver sprecato tutta la propria vita. E quella sensazione gli diede un'angoscia imprevista. Sentiva che stava per mettersi a piangere. Aveva mentito. Khaled non era andato con i fedain ed era stato proprio lui ad impedirglielo. Addirittura aveva minacciato di rinnegarlo se si fosse arruolato nella resistenza contro la sua volontà. E ora gli sembrava che quei pochi giorni trascorsi da allora fossero un incubo, finito in maniera terrificante. Non era forse la stessa persona? Proprio lui, quello stesso Said, che pochi giorni prima aveva minacciato Khaled, suo figlio, di non riconoscerlo più. Che mondo strano, incredibile, ora non trovava niente di meglio per difendersi contro il fatto che questo giovane alto non si riconoscesse come figlio suo, che vantarsi di essere il padre di Khaled. Quello stesso Khaled, a cui aveva impedito di andare con i fedain, minacciandolo con quella stupida frusta chiamata patria potestà. Chissà, forse Khaled aveva approfittato dell'occasione e durante il loro viaggio ad Haifa era scappato. Lo avesse fatto! Come sarebbe rimasto deluso Said su tutti i valori di questa esistenza se tornando a casa avesse trovato Khaled ad aspettarlo. Fece ancora due passi e si mise di nuovo a contare quelle maledette penne di pavone infilate nel portafiori di legno. E per la prima volta, da quando era entrato il giovane nella stanza, guardò Miriam e calmo le disse: lui si domanda come possano il padre e la madre abbandonare il proprio figlio in fasce nella culla e scappare. Sa, signora, lei non gli ha detto la verità. E quando gliel'ha raccontata era troppo tardi. Siamo stati noi ad abbandonarlo. Siamo stati noi ad ammazzare quel bambino vicino alla chiesa di Betlemme, nel quartiere di Adar, quel bambino il cui cadavere, come lei ci ha detto, è stata la prima cosa che l'ha colpita in questo mondo di quotidiane viltà. Forse quel bambino era nostro figlio Khaldun. Forse quella piccola cosa che morì quel giorno maledetto era Khaldun, anzi era Khaldun di sicuro. E lei ci ha mentito dicendo che Khaldun è lui perché invece è morto e questo qui è semplicemente un orfano che lei ha trovato in Polonia o in Inghilterra. Il giovane alto si piegò in due sulla sedia, sembrava stritolato. E Said si disse: noi l'abbiamo perduto, ma lui sicuramente ha perduto se stesso e dopo tutto questo non sarà mai più come era un'ora fa. E la ferma convinzione gli diede un sollievo inspiegabile e vago. E fu questo a spingerlo verso la sedia dove stava il giovane e continuò: l'uomo, come hai osservato tu, vive per la propria causa. Ed è giusto. Ma quale causa? Questo è il problema. Anche Khaled vive per la propria causa, ma non perché è mio figlio. Quando noi stiamo dalla parte di un uomo, non lo facciamo mai in base alla carne, al sangue, alla carta d'identità o al passaporto. Riesci a capirlo? Immaginiamo che tu ci abbia accolti, come noi abbiamo sognato, illudendoci per 20 anni, con baci, abbracci e lacrime, e questo avrebbe cambiato le cose. Se tu ci avessi abbracciato, ti avremmo abbracciato noi. Che il tuo nome sia Khaldun o Dov o qualsiasi altro, che cosa cambia? E con ciò io non ti disprezzo. La colpa non è soltanto tua. E forse da questo momento la colpa comincia a essere il tuo destino. Ma che cosa c'è prima? Che cos'è l'uomo? L'uomo non è forse il risultato di ciò che gli si inietta dentro? Giorno dopo giorno, anno dopo anno, ora dopo ora. Se io mi pento di qualcosa è di aver creduto il contrario per 20 anni. E tornò a trascinare i suoi passi verso la sedia, cercando di sembrare il più calmo possibile. E improvvisamente le cose in quella stanza gli sembrarono completamente diverse da come le aveva viste entrando qualche ora prima in quella stanza. E subito si domandò: che cos'è la patria? È questo tavolino? Le penne di pavone? Una foto appesa al muro? Che cos'è la patria? Nostro figlio Khaldun o le nostre illusioni sul suo conto? essere padre o essere figlio? Che cos'è la patria? E guardò sua moglie, Safia, che piangeva in silenzio e si disse: com'è invecchiata questa donna. Ha consumato tutta la sua giovinezza in attesa di questo momento, senza sapere che sarebbe stato un momento terribile. E guardò di nuovo Dov e gli sembrò impossibile che quel giovane fosse dello stesso sangue di quella donna, e cercò di scoprire una qualsiasi rassomiglianza tra lui e Khaled, ma non ne trovò nessuna. Anzi, gli sembrava che ci fosse un'opposizione totale tra i due, e si meravigliò di non provare più niente per quello lì. Gli sembrava che tutti i suoi ricordi su Khaldun fossero neve sul punto di sciogliersi sotto i raggi improvvisi di un sole ardente. E all'improvviso il giovane balzò in piedi di scatto e andò a fermarsi proprio davanti a Said. In quel momento sembrava che fosse stata la testa di un battaglione di soldati in agguato. Raccolse tutte le sue poche energie per tentare di mantenersi calmo. Tutto questo non sarebbe mai avvenuto se voi due vi foste comportati da persone civili e coscienti. Non dovevate andare via da Haifa. E se questo fosse stato non fosse stato possibile, non dovevate a nessun costo abbandonare un bambino di 5 mesi nella sua culla. E se anche questo fosse stato impossibile, non avreste mai dovuto abbandonare i tentativi di ritornare indietro. Non venite a raccontare che è stato impossibile anche questo. Sono passati 20 anni, signore. 20 anni, che cosa ha fatto lei in tutto questo tempo per riavere suo figlio? Io al posto suo avrei preso le armi per questo. Esiste forse una ragione più valida? Siete degli incapaci, non venite a raccontare che avete passato 20 anni a piangere. Le lacrime non restituiscono le persone scomparse, non restituiscono le persone perdute, le lacrime non fanno miracoli. Tutto il pianto della terra non riuscirebbe a far galleggiare una barchetta con sopra 2 genitori che vanno alla ricerca del loro figlio perduto. Avete passato 20 anni a piangere, è questo che siete venuti a raccontare oggi? Said era sbalordito e offeso. Si sentì come scosso da un forte capogiro. Possibile che tutto ciò fosse vero? Non poteva essere semplicemente un sogno, un incubo, e guardò di nuovo sua moglie, il cui sgomento aveva assunto ora la forma di una stanchezza indifesa. E soltanto per non avere l'aria dello stupido, le rivolse la parola con voce tremante e disse: io non voglio discutere con lui. Che cosa ha detto? Niente. Dice che siamo vigliacchi. E lei, con aria innocente: ed è perché noi siamo vigliacchi che lui è diventato così. Said si voltò di nuovo verso di lui, che se ne stava ancora lì in piedi, le penne di pavone aperte dietro, come a formare la coda di un grande gallo color cachi. E quello spettacolo gli diede un sollievo inatteso e disse: mia moglie domanda se è stata la nostra vigliaccheria a darti il diritto di essere così. Come vedi, lei ammette ingenuamente che noi siamo stati vigliacchi, e forse su questo hai ragione, ma ciò non ti giustifica affatto. Un errore sommato ad un altro errore non dà mai un risultato giusto. Se le cose stessero così, ciò che è successo a Efrat e Miriam ad Auschwitz sarebbe giusto. Ma quando la smetterete di approfittare delle debolezze e degli errori degli altri? Queste parole sono logore, queste equazioni sono cariche di inganni. Una volta dite che i nostri errori giustificano i vostri, e che a un'ingiustizia non si pone rimedio con una nuova ingiustizia, e vi servite del primo ragionamento per giustificare la vostra presenza qui e del secondo per evitare le conseguenze di ciò che avete fatto, mi pare che ve la godiate un mondo con questo gioco divertente. Ed ecco che tu cerchi di nuovo di fare della nostra debolezza il tuo cavallo di battaglia. No, io non ti parlo come se tu fossi arabo. Ora più che mai so che l'uomo vive per la propria causa e non per la carne e il sangue ereditati di generazione in generazione come carne in scatola comprata in un negozio. No, io ti parlo perché so che prima di tutto tu sei un essere umano. Sei ebreo o quello che vuoi, ma tu devi capire come stanno le cose. E io lo so che un giorno tu capirai queste cose e ti renderai conto che il delitto più grave che possa commettere un uomo, chiunque sia, è quello di credere anche per un solo istante che le debolezze e gli errori degli altri gli diano il diritto di esistere a spese loro e di giustificare i propri errori e i propri delitti. Tacque un istante, lo guardò dritto negli occhi. E tu credi che noi continueremo a sbagliare per sempre? E il giorno che smettessimo di sbagliare, che cosa ti resterebbe? E si rese conto che dovevano alzarsi e andarsene. Lì non avevano nient'altro da dirsi, la questione era chiusa. E in quel momento provò uno strano affetto per suo figlio Khaled. Avrebbe voluto volare da lui, baciarlo, abbracciarlo, piangere sulla sua spalla in una strana e inspiegabile inversione di ruoli di padre e di figlio. E questa è la patria, si disse sorridendo. E poi, rivolto a sua moglie, lo sai che cos'è la patria, Safia? È che tutto ciò non succeda mai più. Che cosa ti succede, Said? Domandò lei nervosa. Niente. Niente. Cerco la vera Palestina. La Palestina che vale più dei ricordi. Più di una penna di pavone o dei segni di matita su un muro delle scale. La Palestina che vale più di un bambino. Che cos'è la Palestina? Per Khaled. Per lui che non conosce questa casa. E nemmeno il vaso, le penne, e nemmeno Khaldun. E malgrado ciò gli sembra che valga la pena di prendere le armi e di morire per la propria causa. Invece per te e per me che cos'è? È soltanto la ricerca di roba coperta dalla polvere dei ricordi. Ma noi abbiamo sbagliato a credere che la patria fosse soltanto il passato. Per Khaled la patria è il futuro. E la differenza è talmente grande che lui ha deciso di prendere le armi per questo. Lui guarda verso il futuro. Ed è per questo che corregge i nostri errori e gli errori di tutto il mondo. Dov. Lui è la nostra vergogna. Ma Khaled è l'orgoglio che ci resta. Non te l'avevo detto che non bisognava venire. Fin dall'inizio. Non c'è bisogno della guerra. Andiamocene via. Khaled lo ha capito prima di noi. Dov era rimasto seduto, ricurvo su se stesso. Il suo berretto era ancora appoggiato accanto al portafiori di legno e chissà perché sembrava tanto ridicolo. Miriam disse lentamente: «Non potete andarvene così, non abbiamo parlato abbastanza». «Non c'è nient'altro da aggiungere», rispose Said. «Forse, per quanto la riguarda, tutta la questione è soltanto un evento sfortunato. Ma la storia non è andata così. E venendo qui noi l'abbiamo intralciata. E così le confesso che quando siamo andati via da Haifa, nel 48, tutto ciò sembrava temporaneo. Sa, signora, io credo che il prezzo lo pagherà ogni palestinese. So che molti pagano ogni giorno con i propri figli. E ora so che anch'io ho pagato con un figlio. In modo speciale, ma anch'io ho pagato. Questa è stata la mia prima parte ed è una storia che sarà difficile da raccontare. Potete rimanere in casa nostra. Per ora. Questa è una questione che si dovrà risolvere con la guerra. E si mise a scendere per le scale, scrutando a lungo e meticolosamente ogni cosa. E tutto gli sembrava meno interessante di qualche ora prima, è incapace di provocare in lui qualsiasi emozione profonda. Dietro di lui sentiva i passi di Safia, più sicuri di prima. Fuori la strada era quasi deserta. Si diresse in direzione della macchina e la lasciò scivolare senza rumore in discesa. Soltanto alla curva accese il motore e tacque per tutto il viaggio. Non disse nemmeno una parola fino alla periferia di Ramallah. Soltanto allora si rivolse a sua moglie. Spero che Khaled se ne sia già andato durante la nostra assenza. Luglio del 1972. All'età di 36 anni, Ghassan Kanafani e sua nipote Lamis, di soli 16 anni, venivano assassinati a Beirut in un attentato terroristico attribuito ai servizi segreti israeliani. Il giorno dopo, per le vie di Beirut, migliaia di persone sfilarono mute in corteo dietro alla sua bara, piangendo in lui, il più celebre e sensibile interprete della tragedia palestinese. La lotta per una terra può riempire una vita intensa, ma breve. È la scelta, ci si ricorda, di Achille nell'Iliade. Jean Genet.